557. Bistecca nel tegame. Se avete una grossa bistecca che per essere di bestia non tanto giovane o macellata di fresco vi faccia dubitare della sua morbidezza, invece di cuocerla in gratella, mettetela in un tegame con un pezzetto di burro o un gocciolino d'olio e, regolandovi come al numero 527, datele odore di aglio e ramerino. Aggiungete, se occorre, un gocciolo di brodo o d'acqua, oppure sugo di pomodoro, e servitela in tavola con patate a tocchetti cotte nel suo intinto. E se questo non basta, aggiungete altro brodo, burro e conserva di pomodoro.